Ben ritrovati a 451 frammenti sonori, SSF, Charity Chan che abbiamo recuperato dalla prima parte e con il loro splendido disco di qualche mese fa, Somewhere the Sea and Salt. Beh, uno dei grandi gioielli delle nuove avanguardie, c'è ancora avanguardia. Non dobbiamo avere paura, come diciamo spesso, di questa parola, anzi, e soprattutto, insomma, c'è ancora chi sperimenta anche forte, perché dentro questi flussi legati a musiche silenti che cercano appunto questo momento quasi svuotato, poi dentro c'è veramente un mondo ricchissimo di sperimentazioni sonore, da musiche di taglio contemporaneo caggiano, come diceva prima appunto Eliseo, e quindi il maestro, il grande anche ideatore del suono silenzio forma, probabilmente è una trasmissione che si potrebbe dedicare interamente proprio a Cage, in una certa qual maniera lo stiamo anche facendo, piani preparati, ma anche un'elettronica che entra dentro Charity Chan e che con frequenze allucinanti, magari chi non lo sta ascoltando in cuffia, che non ha ascoltato quest'ultimo pezzo, il primo della seconda parte di 451, non si è reso conto di come la frequenza medio-alta veramente arrivasse quasi a punti quasi inaudibili per accettabilità appunto timbrica, che noi pazzi come 451 invece ci siamo ascoltato anche a volume alto, quasi cercando insomma di veramente perforarci definitivamente, inesorabilmente, il nostro apparato uditivo. Per il momento insomma non è ancora scomparso del tutto, quindi il mondo di Charity Chan vive anche tra quel primitivismo di nuova sensibilità, tanto per andare verso una citazione a noi tanto cara, ad esempio il pezzo che finiva la prima parte di 451 era dedicato ai misteri eleusini, culti misterici dell'antica Grecia, addirittura si parla di culti pre-ellenici, dove c'è una sorta di perenne risveglio e riposo poi della natura. In effetti il culto è dedicato alla figlia di Demetra, che è la madre terra, dedicato appunto a Persefone, anche conosciuta come Core, che vive sei mesi nell'Ade, sposata appunto con Ade, a sua volta rapitore appunto di questa splendida e meravigliosa fanciulla, e poi dopo gli altri sei mesi, invece i mesi del risveglio, della purificazione, così come appunto veniva nel culto primaverile degli Eleusini, c'è appunto il ritorno alla madre terra, Demetra, una sorta di appunto narrazione che potrebbe essere letta come psicomitologica, come il rinnovarsi della vita e della morte, in sostanza l'Ade è anche appunto il luogo dell'oltretomba, e con questi riferimenti culturali lontani ma poi anche insomma eterni dentro una condizione antropologicamente data, caro, che a me piacciono molto, diciamo, sì, lo so, tu sei un appassionato della storia antica, della storia arcaica, tu sei un primitivo e basta, non di nuova sensibilità, di vecchia sensibilità, primitivissimo, sei proprio antico, protostoria. Bene, dopo questa splendida e anche assolutamente azzeccata digressione nei confronti ovviamente dei miti greci e degli dei, poi, no? Certo. Che hai citato, importantissimi anche nella mitologia che ha attraversato tutta la nostra cultura occidentale e anche fondativa, e anche la nostra cara religione cristiana e poi cattolica, che ha tinto a piene mani, certo, rispetto a questa mitologia, e non solo, perché poi il culto della Dea Madre è un culto ancora più antico, sì, a cui hanno attinto pesantemente figure iconografiche abbastanza importanti nella nostra cultura cattolica. Non vado oltre, comunque. Sì, non solo quelle, insomma, sì, varie, certo. Hanno parlato varie. Andando invece ancora nel nostro percorso di suono, silenzio, forma, andiamo a trovare un personaggio che è sempre arrivato un po' vicino a 451 frammenti sonori, ma non è mai comparso. In realtà è un personaggio che si inserisce molto bene all'interno della puntata di stasera, insieme a un altro personaggio che, insomma, ha una sua importanza storica e non solo, Mike Patton. Parliamo di Eivind Kang e Mike Patton, che in questo lavoro, Virginal Coordinates, uscito nel 2003, commissionato da Angelica. Dunque questo è un lavoro commissionato proprio dal Festival Internazionale di Musica a Bologna di Angelica, che ha prodotto questo lavoro molto interessante, dove appunto si intersecano la voce di Mike Patton e il chitarrista Tim Young insieme appunto al grande Eivind Kang, direi grande Mike Patton soprattutto più che Eivind Kang, che su altri lavori ha lasciato un po' perplessi. In questo disco sicuramente emergono delle cose interessanti. È importante ricordare che Kang è un violinista che è già, diciamo, sulla scena musicale da parecchi anni e ha lavorato appunto dentro questo festival, che sicuramente credo c'eravamo nel 2003, dunque dovremmo averlo seguito. Sì. Tu tempo fa te lo ricordavi questa cosa, e abbiamo selezionato le prime due tracce da questo disco sicuramente interessante, uscito appunto per Angelica, e ci andiamo ad ascoltare le prime due tracce che in parte si possono anche distanziare dal discorso silenzio, nel senso che il silenzio emerge relativamente più un elemento dentro la strutturazione musicale dei brani, ma appunto, dato che il titolo non è solo sul silenzio, ma sono silenzio e forma, entra pienamente bene dentro il contesto di stasera. Andiamoci dunque a sentire Eivind Kang e Mike Patton da Virginal Coordinators. Thank you. Yeah. I see again my schoolroom in Vera. The blue roses of the wallpaper, the open window. Its reflection fills the oval mirror above the leathern couch where my uncle sits, gloating over a tattered book. A sense of security, of well-being, of summer warmth pervades my memory. That robust reality makes a ghost of the present. The mirror brims with brightness. A bumblebee has entered the room and bumps against the ceiling. Everything is as it should be. Nothing will ever change. Nobody will ever die. Edwin Robinson. I'm 62 years old. I live in Falmouth, Maine. From 1952 to 1978, I drove a truck for Red Ball Freight. One night I was coming back from Portland, and a big gull flew smack into my windshield. I saw a flash of light, and the glass shattered. I missed a curve and ran off into a big elm. When I came to, I couldn't see a thing. I've been blind ever since. Last week there was this big storm. I was out in the backyard, kind of dozing. I felt the first drops of rain on my cheek, the wind coming up my hair, so I got up. Pat, that's my wife, had strung a rope from the back porch to the maple at the end of the garden after the accident, so I could find my way without getting into the flower beds. I reached for the rope and headed for the house, but I must have gotten turned around, because after a while, my left hand touched the tree. That's when it happened. I heard a sound like a whip. My hand got slapped hard, and I must have gone flying 10 feet back the line. Next thing I knew, I was staring up at white smoke curling off a black branch against a gray sky. Pat came running towards me, wearing the most beautiful red dress I'd ever seen. Il silenzio finale di chiusura appunto di questo brano con rumori che partono dallo studio un po' inquietanti, ma stanno anche dentro appunto al tema di stasera: suono, silenzio e forma. Ci sono queste sedie che sono tremende, sono terrifiche, sembra che usciamo dalla bara ogni volta. Potrebbero usare un po' di olio, un po' di olio di comico. La prossima volta la portiamo a noi. Sì, fanno dei rumori, non ti puoi muovere con la sedia, si sente tutto dai microfoni. Comunque, ecco, diciamo che qui eravamo più dentro la forma, no? Suono, silenzio, forma, qua siamo nella forma. col suono delle sedie. Delle sedie, sì, niente sì. Silenziose, insomma. Molto silenziose. E abbiamo appena ascoltato, abbiamo mixato il progetto che abbiamo presentato, quello di Ivan Kang e Mike Patton, con questo splendido lavoro di Nicholas Collins, musicista che ha una storia importante, avendo studiato con il grandissimo, uno dei più importanti della scena contemporanea del Novecento, Elvin Lucier, alla Wesleyan University negli anni 70, e è arrivato poi a portare avanti Nicholas Collins nei 30 anni ormai di carriera musicale varie progettualità e installazioni sonore tra Stati Uniti, Europa, Sud America e Giappone. È sicuramente uno dei più importanti musicisti della scena elettronica, soprattutto per il fatto di essere stato uno dei pionieri, uno dei primi ad usare dei microcomputers in performance live, e usando anche dei veri e propri circuiti elettronici autocostruiti, collegando radio, materiali sonori, oggetti appunto elettrici, registratori e strumenti musicali trasformati e modificati. Sicuramente è un musicista eclettico, lo sentiamo ancora in sottofondo con questo disco uscito nel 2000, Sound Without Picture. Diciamo che varia attraverso brani come il primo che abbiamo ascoltato, che di chiara derivazione post-minimalista, con questa frammentazione connessa chiaramente al glitch. Siamo negli anni ancora del pieno boom glitch, fine 90, inizio anni 0, con appunto strutturazioni analogiche e suoni anche acustici, tipo la tromba che soggiaceva sotto questo brano e questi frammenti che venivano ripetuti in maniera ciclica, appunto in maniera minimalista. Musicista dunque che emerge per la sua grande poliedricità e per l'uso del suono in maniera assolutamente innovativa. Lui attualmente continua a fare installazioni sonore, dunque performance estremamente variegate ancora in tutto il mondo, utilizzando molto anche le parti video e le installazioni appunto artistiche e sonore. In questo disco abbiamo ascoltato due brani e abbiamo notato, penso anche gli ascoltatori abbiano notato, che l'utilizzazione anche del cosiddetto spoken word, dunque questi parlati e questi testi che vengono inseriti, lo sentiamo ancora anche adesso in sottofondo, anche trattati ovviamente intrecciandoli ai suoni e alle strutture musicali che porta avanti. Qua il silenzio emerge in maniera differente, non è parte preponderante come abbiamo notato anche precedentemente in Ivan Kang, infatti li abbiamo messi insieme in apertura della seconda parte, hanno una funzione inserita nel contesto musicale complessivo, ma anche se non emergono momenti di silenzio, possiamo dire quasi conteggiati in secondi assoluti, il concetto, la concezione musicale sta dentro il discorso del silenzio, dentro appunto la strutturazione dei brani, delle composizioni. Da Nicholas Collins adesso invece ci approcciamo, mi sa che siamo un po' rincoglioniti, però come al solito, il primo ritorno siamo sempre un po' che maniamo le vocali, le consonanti, qualcos'altro. Andiamo a trovare un altro grande. Nicholas Collins è un artista tutto tondo, con Mark Behrens si va a trovare, prima lo citavi, proprio quel mondo glitch che tanto ha filtrato con il silenzio, se da una parte si è sviluppata poi una scuola vicina, una techno sui generis molto sperimentale, da un'altra parte, avvicinandosi a composizioni di taglio sicuramente più contemporaneo, la glitch music, tutto il fermento di Mid Plateau e etichette che comunque si sono mosse, insomma, nell'esperimento dell'errore digitale e poi anche in una certa qual maniera di simulazione anche elettroacustica di questo errore. Sicuramente il silenzio è entrato dentro le maglie compositive di alcuni grossi compositori anche degli anni zero, appunto legati al silenzio, da von Hauswolf, che comunque proviene dalle sperimentazioni anche di qualche anno prima, a Rebecca Bauer, a John Hudak che troveremo dopo, a Jim O'Rourke, tutti i personaggi tra l'altro che troviamo dentro questa meme compilation, una delle compilation che sicuramente di più approfondisce quel discorso tra glitch e suono elaborato in maniera concreta. In questo caso con Behrens si va sicuramente a impattare con quasi una sorta di suono silente, neutralizzante, quasi un rumore bianco che sembra lambire il silenzio proprio per neutralizzazione degli elementi sonori. In effetti è particolarissima la poetica musicale sonora di Mark Behrens, il concretismo suo, le sue installazioni, le sue fotografie, i suoi video attraversano veramente tutto il mondo, dando però un'immagine appunto sempre piuttosto astratta di questo. Non è una sorta di documentarismo concretista musicale, ma è appunto un trattamento che va quasi partendo da una natura appunto concreta, poi va a astrarsi, va a diventare quasi una sorta di metafisica sonora. Andiamo quindi a prendere da Meme Compilation Mark Behrens e continuiamo questo viaggio verso il silenzio. Siamo rientrati in diretta, abbiamo dovuto diciamo un po' sfumare questo brano che abbiamo collegato allo splendido lavoro che abbiamo appena ascoltato di Mark Behrens. Si tratta di un personaggio della scena americana che è emerso tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 0. Si tratta di John Gzirnik, che in realtà come progetto in questo caso si presenta come J. Gzirnik, un nome assurdo, già il nome è assurdo, e poi lui ha collegato anche il suo nome di battesimo, la J soltanto, al suo cognome, dunque è venuto fuori veramente qualcosa di impronunciabile. Probabilmente lo ha fatto anche apposta, giocando un po' con le lettere e con l'effetto anche sonoro della pronuncia del suo nome. E musicista appunto americano che si muove sulla scena della musica elettroacustica ed elettronica, utilizzando molto però l'aspetto e l'approccio concretista, e dunque utilizzando molto la microfonazione, la strutturazione e la registrazione di suoni appunto concreti, assemblandoli e creando appunto anche questi flussi sonori, questi droni mischiati anche a questo effetto sonoro abbastanza allucinogeno e quasi caotico, lo sentiamo ancora in sottofondo, e il disco poi diciamo intervalla questi momenti sonori estremamente in realtà apparentemente confusi, molto caotici, a dei suoni ipnotici e anche a momenti in cui il silenzio diventa parte preponderante, dove appunto solo in alcuni frammenti si sentono dei suoni che emergono all'interno appunto del suono silenzio che fa da tappeto sonoro continuo. Uno splendido lavoro concettualmente. Questo disco Confluence ricorda sicuramente degli elementi tra musica contemporanea e elettronica, anche delle più aperte, ma anche una certa elettroacustica che poi ritroveremo nella parte finale della trasmissione di stasera, che abbiamo dedicato anche a questo settore, a questa scena musicale che rientra dentro il discorso suono, silenzio, forma che stasera stiamo cercando di rappresentare. E da Gizirnik e Confluence andiamo a trovare un personaggio che poi ha collaborato e ha fatto parte anche di un progetto comune a quest'autore che abbiamo ora presentato. Sì, in sostanza Seth Neill è un po' il fratellino musicale di Gzirnik, se così si può pronunciare, e personaggio anche egli legato a un mondo sonoro che si muove tra concretismo, field recording, trattamento dell'acustico, dell'elettroacustico in maniera inusuale, come d'altronde poi tutta la scuola elettroacustica insegna, un trattamento e uno sviluppo dello strumento in chiave assolutamente inedita, quindi forme insomma di sperimentazione proprio lì sullo strumento, molto interessante anche appunto tutto il discorso di registrazione che viene fatto dai due. Seth Neill ha fatto vari lavori, tra l'altro anche con collaborazioni come quella di Michael Northam, Olivia Block, quindi altri personaggi che si muovono in questo mondo che è partito nel mondo sonoro negli anni 90 e che veramente si ciba di varie attitudini, tutte svolte anche con una certa formalità e con una certa formalizzazione, per meglio dire, quindi anche una risoluzione trovata in campi e sperimentazioni sonore molto differenti. Andiamo a trovare Seth Neill insieme a Toy Bizarre, altro personaggio di questa cerchia di strambi sperimentatori tra silenzi, rumori, concretismi e quant'altro veramente c'è nel loro mondo. Da The Sound of the Nature, bella compilation, e The Nature of Sound, c'è questo gioco di parole che la dice lunga anche appunto su proprio la riflessione tra suono, silenzio, forma, suono, rumore, strutturazione, musica naturale e artificiale. Una riflessione che appunto viene compiuta anche appunto da Seth Neill insieme a Toy Bizarre. Thank you. Bene, ascoltato Seth Neill insieme a Toy Bizarre, pezzo che si potrebbe insomma anche sintetizzare come stavamo facendo un po' prima con Mark Behrens, come neutralizzazione anche, forse un silenzio legato al mondo sperimentale del concretismo, post-concretismo, chiamiamolo un po' come crediamo meglio, che va a cercare appunto una sorta di annullamento dentro il suono, quindi anche una soggettivazione poi di questo attraverso appunto l'ascolto e attraverso un momento appunto di perdita, quindi soggetto che diventa poi oggetto musicale, un mondo insomma molto variegato e che va appunto a cercare questo silenzio e lo va anche per molti aspetti anche a trovarlo appunto formalmente. Adesso andiamo verso la parte che avevamo già preannunciato, legata più alla dimensione elettroacustica, attraverso due progetti. Il primo che andiamo a presentare è quello di John Hudak e Jason Kahn, dall'album For the Time Being del 2004. È un disco targato John Hudak, personaggio che è nato in Massachusetts nel 58, dunque negli Stati Uniti, musicista che si è sempre interessato ovviamente al suono, al silenzio come elemento assolutamente fondante della propria musica, studiando prima all'University of Delaware e poi arrivando al Naropa Institute for the Arts nel 1979. Ha studiato sia fotografia che installazioni, video, e ha creato anche scritture e anche parti per danze collegate ovviamente alle sue costruzioni sonore. Dunque abbastanza poliedrico a livello artistico. La cosa interessante è che lui si è sempre soffermato a studiare sicuramente anche vere e proprie strutturazioni legate ai nastri magnetici e anche a colonne sonore connesse a questi nastri magnetici, poi manipolate, dunque manipolazioni di sorgenti sonore differenti, arrivando anche ovviamente a trattamento di strumentazioni analogiche, elettroacustiche ed elettroniche, e si è anche molto interessato e ha strutturato brani e dischi anche su delle formulazioni che possiamo sicuramente collegare all'ambito minimalista e post-minimalista. Musicista dunque molto poliedrico, interessato sicuramente anche al discorso sonoro inteso soprattutto nella parte elettroacustica che andremo a sentire in questo disco, poi collegato a un altro personaggio, anzi ad altri due personaggi che andremo poi a presentare successivamente. Intanto godiamoci John Hudak insieme in collaborazione a Jason Kahn dall'album For the Time Being 2004. Thank you. ascoltato in sequenza John Hudak, Jason Kahn for Time Being e Annette Grebs e Tagu Sugimoto. Beh, disco decisamente importante questo a due in Berlin, sia perché Sugimoto così sancisce in una certa qual maniera la sua distanza dal rock, gruppi come Ghost che negli anni 90 comunque hanno riportato in una certa qual misura le psichedelie dentro un nuovo mondo sonoro, deletizzandosi anche con quello che stava succedendo in termini di post rock, di nuova visione insomma del suono chitarristico. Anche Annette Grebs viene dagli studi chitarristici anche più classici rispetto a Sugimoto, che appunto negli anni 90 con varie formazioni rock si è mosso dentro le psichedelie. La Krebs per anni è stata diciamo lontana dalle produzioni musicali, esce appunto in duo con questo splendido lavoro elettroacustico insieme al giapponese, elabora un linguaggio piuttosto pulito, potremmo dire così, nel senso di voglia insomma di ripulire una certa improvvisazione radicale e portarla verso un suono delicato, ecco, in questo senso il pulito di Krebs e Sugimoto. Poi per il resto diciamo che c'è un lavoro sulle frequenze e su un trattamento elettroacustico che si può dire tutto tranne che pulito, però nel senso di trovare atmosfere sicuramente astratte, molto così metafisiche dentro il loro duo. Sicuramente c'è questa voglia, e anche questo fa parte di un esperimento che porta appunto i due verso un suono elettroacustico vicino a certe musiche silenti, a certe insomma voglie di andare verso un vuoto che tale non è, ma appunto ridisegna, no, in maniera anche piuttosto paradossale. Qua veramente potremmo tirare fuori con Sugimoto anche lo zen, no? La voglia di giocare su una sorta di vuoto, di nonsense, che però appunto trova una creazione poetica decisa anche in questa due in Berlin di Annette Grebs e Tagu Sugimoto, che per altri versi sancisce, caro, la fine di questa trasmissione. Una chiusura appunto. Nel silenzio non si sente più niente sottofondo. In realtà c'è in sottofondo ancora Annette Grebs e Tagu Sugimoto. Sono talmente silenziosi, questo pezzo è veramente... È veramente minimale in questo senso, però va ridotto bene, al silenzio quasi totale, qualche frammento di rumore che esce ogni tanto, un piccolo suono che emerge. Va bene, carissimo, abbiamo di nuovo, cara mascherina, ti saluto mascherina, però non hai detto il buon Max, Max è vero, buonanotte il sognatore il sognatore. Buonanotte ai sognatori, che è più sognatore. Bello ancora, perché il sogno insomma, ma quelli stanno già sognando, fa parte della vita, sì, la vita è un sogno e la vita aiuta a sognare meglio. Vabbè, abbiamo diciamo inaugurato il 2011, speriamo che insomma 2011 è particolare, sai, c'è un gioco di numeri particolare, perché 2 1 1 1 più 1 2 2 2. Sì, tra l'altro insomma a livello numerologico non porta particolarmente bene. Non porta bene, sì. Perché dobbiamo dire queste cose? Però? Così. Per dare fastidio al mondo, a questa bellissima città che ci accoglie sempre a braccia aperte. Tu stai poi parlando anche in lontananza. La lontananza utopica. Lontananza utopica di Eliseo Scarpa. Di Eliseo Scarpa, non di Luigi Nono. È una lontananza abbastanza rarefatta la mia. Va bene, un saluto ovviamente dal buonissimo Max Macchia. E dalla bontà proprio impersonificata in Eliseo Scarpa. Arrivederci alla prossima domenica su questi schermi. Vedeteci perché siamo bellissimi. Siamo meravigliosi. E non diciamo dove, perché potrebbero anche vederci adesso. Meglio di no. Guarda. Però non diciamo proprio niente. Anche perché se ci riconoscete, poi non vi diciamo che succede. E siamo anche cambiati un po', vabbè. Buonanotte, che dici? Sì. Ma sì, dai. Ma cosa vuoi fare? Puoi confermare. Stasera mi prendo un po' di latte e miele. Ecco, bravo. Che mi fa andare mille bene. Fiori, mi bagno. Ma perché dici ste cose? Ma si può mollare? Perché mi aiuta, insomma. E vabbè, vabbè, mica sognare meglio. La pubblicità qua del latte e miele. Di Ureti, no, ma latte, latte con il miele, latte caldo col miele. Ti aiuta lì a andare. Ma mi aiuta, che devo fare? Anche ma si può fare, sti commenti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.